Il medico fece un'iniezione di morfina e per rendere la respirazione meno faticosa ricorse alle bombole d'ossigeno. Mia madre, il dottore, la suora le reggevano in mano. Finita una, subito ne prendevano un'altra. Ero momentaneamente uscito dalla camera. Rientrando, mi trovai di fronte a una sorta di miracolo. Accompagnata in sordina da un ininterrotto mormorio, la nonna sembrava rivolgersi a noi con un lungo canto felice che riempiva la stanza, veloce, musicale. Capì ben presto che esso non era, in sostanza, meno incosciente, che era non meno puramente meccanico del rantolo di poco prima. Forse, in lieve misura, rifletteva un po' di benessere procurato dalla morfina, ma soprattutto, poiché l'aria non passava più attraverso i bronchi nello stesso modo di prima, era il risultato di un cambiamento di registro della respirazione. Liberato dalla duplice azione dell'ossigeno e della morfina, il respiro della nonna non faticava più, non gemeva più, ma vivo e leggero scivolava, come pattinando, verso il fluido delizioso. Al fiato, insensibile come il soffio del vento nel flauto di una canna, si mischiava forse in quel canto qualche sospiro più umano, di quelli che, sprigionati all'approssimarsi della morte, ci fanno credere a moti di sofferenza o di gioia in chi, ormai, non sente più, aggiungendo, ma senza mutarne il ritmo, un accento più melodioso alla lunga frase che si innalzava, saliva ancora di più, poi ricadeva per slanciarsi di nuovo dal petto alleviato all'inseguimento dell'ossigeno. Infine, giunto così in alto, prolungato con tanta forza, sembrava a tratti che quel canto, nel quale si infiltrava un mormorio di supplice voluttà, si spegnesse del tutto, come una sorgente che si inaridisce. Françoise, quando soffriva di un grande dispiacere, sentiva l'inutile bisogno, ma non possedeva l'arte ugualmente semplice, di esprimerlo. Ritenendo la nonna definitivamente spacciata, quel che teneva a comunicarci erano le impressioni sue di lei, Françoise. Ma, di fatto, si limitava a ripetere «Mi fa così impressione!» nello stesso tono in cui, quando aveva mangiato troppa zuppa di cavoli, annunciava «Ho come un peso sullo stomaco!» Il che, in un caso come nell'altro, era più naturale di quanto non sembrasse credere. Pur tradotto in termini così flebili, il suo era comunque un grande dolore, inasprito per giunta dal disappunto per il fatto che la figlia, trattenuta a Combré, che quella giovane parigina adesso chiamava con disprezzo «la campagna» e dove sosteneva di sentirsi ammuffire, non sarebbe stata verosimilmente in grado di partecipare alla cerimonia funebre destinata, Françoise ne era convinta, a risultare qualcosa di superbo. Conoscendoci per tipi poco estroversi, aveva convocato in anticipo Jupien per tutte le sere della settimana. Sapeva che, all'ora del funerale, non sarebbe stato libero. Voleva almeno raccontarglielo appena tornata dalla cerimonia. Da parecchie notti, mio padre, mio nonno e un nostro cugino vegliavano senza più uscire di casa. Protraendosi la loro abnegazione, finiva con l'assumere la maschera dell'indifferenza e quell'interminabile oziare nei pressi di un'agonia l'induceva allo stesso genere di discorsi che è inseparabile da una lunga permanenza in un vagone ferroviario. D'altronde il cugino, nipote della mia prozia, suscitava in me un'antipatia pari alla stima che meritava e che di solito riscuoteva. Si poteva contare su di lui in ogni situazione particolarmente grave e la sua assiduità presso i moribondi era tale che le famiglie, reputandolo di salute cagionevole ad onta del suo aspetto robusto, della sua voce da basso e della sua barba da geniere, lo scongiuravano sempre, con le perifrasi d'uso, di non partecipare ai funerali. Sapevo già che la mamma, nella sua sollecitudine verso gli altri, pure in mezzo al più atroce dolore, gli avrebbe rivolto, in altra forma, il discorso che egli era abituato a sentirsi puntualmente ripetere. «Promettetemi che domani non berrete. Fatelo per lei. Non andate fin là, almeno. Ve l'avrebbe chiesto lei di non venire». Niente da fare. Era sempre il primo a presentarsi e per questo, in un altro ambiente, gli avevano affibbiato il nomignolo, da noi ignorato, di «non fiori ma opere di bene». E prima d'andare dappertutto, aveva sempre pensato a tutto, ciò che gli valeva il seguente attestato. A voi non si può nemmeno dire grazie. «Eh? Come?» chiese gridando il nonno, che era diventato un po' sordo e non aveva sentito qualcosa che il cugino aveva detto a mio padre. «Niente», rispose il cugino. «Stavo solo dicendo che stamane ho ricevuto una lettera da Combré dove c'è un tempo orribile, mentre qui il sole è fin troppo caldo». «Eppure il barometro è decisamente basso», intervenne mio padre. «Dov'è che c'è brutto tempo?» chiese il nonno. «A Combré? Ah, non mi stupisce. Ogni volta che qui è brutto, a Combré è bello e viceversa. Dio mio, a proposito di Combré, qualcuno ha pensato di avvertire le Girondins?» «Sì, non preoccupatevi, è cosa fatta», rispose il cugino, le cui guance ombreggiate da una barba troppo fitta sorrisero impercettibilmente per la soddisfazione di averci pensato. A questo punto mio padre si allontanò in tutta fretta. Credetti a un miglioramento o al peggio. Semplicemente era arrivato il dottor De La Foix. Mio padre lo ricevette nel salotto contiguo come un attore atteso per una recita. Gli si era chiesto di venire non per curare, ma per constatare in veste di notaio. Può darsi benissimo, in effetti, che il dottor De La Foix fosse un grande medico, un insigne professore. A questi ruoli, nei quali eccelse, mi affiancava un altro in cui, per 40 anni, non ebbe rivali, un ruolo non meno originale di quello di Scaramouche, del pedante o del padre nobile, e che consisteva nell'andare a constatare l'agonia o la morte. Il suo nome lasciava già presagire la dignità con cui avrebbe assolto quella funzione, e quando la cameriera annunciava «Il signor De La Foix», sembrava d'essere in una commedia di Molière. Alla dignità dell'atteggiamento concorreva, con elegante discrezione, il fascino di una figura slanciata. L'eccessiva bellezza del viso era attenuata dalla capacità di conformarsi a circostanze dolorose. Entrava, nella sua nobile redingote nera, con tristezza scevra di affettazione. Non pronunciava una sola parola di cordoglio che non suonasse sincera. Non commetteva la sia pur minima infrazione alle regole del tatto. A un letto di morte era lui il gran signore, non il duca di Guermantes. Dopo aver guardato la nonna senza stancarla e con un eccesso di riserbo che era un atto di omaggio verso il medico curante, rivolse poche, sommesse parole a mio padre, s'inchinò rispettosamente davanti a mia madre e notai che mio padre dovette trattenersi per non dirle «il professor De La Foix». Ma già questi aveva voltato la testa per non importunare e se n'era andato nel più incantevole dei modi dopo aver accettato con semplicità l'onorario per la visita. Si sarebbe detto che nemmeno lo vedesse e per un attimo ci chiedemmo se gliel'avessimo veramente dato, tanta era stata la destrezza da prestigiatore con cui l'aveva fatto scomparire senza minimamente scalfire, ma semmai accentuando la gravità da grande scienziato, con la sua lunga redingote dai risvolti di seta e la sua bella testa aureolata da una nobile commiserazione. La sua lentezza e la sua vivacità davano a vedere che, sebbene lo aspettassero altre 100 visite, non voleva aver l'aria d'affrettarsi. Egli era, infatti, la delicatezza, l'intelligenza e la bontà personificate. Quell'uomo eminente non è più. Altri medici, altri professori l'hanno probabilmente uguagliato, forse superato, ma la funzione nella quale il suo sapere, le sue doti fisiche, la sua perfetta educazione lo facevano trionfare non esiste più, per mancanza di successori capaci di svolgerla. La mamma non si era nemmeno accorta del dottor de la Foix. Per lei tutto ciò che non fosse la nonna non esisteva. Ricordo che al cimitero, sto anticipando, dove la si vide, simile a un'apparizione soprannaturale, avvicinarsi timidamente alla tomba e guardare come a un essere che, volando, si fosse già allontanato da lei, quando mio padre le disse: «Il vecchio Norpois è venuto a casa, in chiesa, al cimitero, ha sacrificato un impegno molto importante e dovresti dirgli una parola, ne sarebbe commosso». All'inchino dell'ambasciatore, la mamma non poté rispondere che abbassando con dolcezza il viso, sul quale non era scorsa neppure una lacrima. Due giorni prima, e anticipando ancora, prima di tornare a quell'istante accanto al letto dove la malata agonizzava, mentre si stava vegliando la nonna morta, Françoise, tutt'altro che persuasa dell'inesistenza dei fantasmi e pronta a spaventarsi al minimo rumore, ogni tanto sussurrava: «Ah, mi sembra d'averla sentita!» Ma, invece dello spavento, era una dolcezza infinita ridestarsi al suono di queste parole nella mamma, la quale avrebbe tanto voluto che i morti ritornassero per avere qualche volta sua madre accanto a sé. Tornando adesso alle ore dell'agonia, «Sapete che cosa hanno telegrafato le sue sorelle?» chiese il nonno a mio cugino. «Sì, me l'hanno detto. Beethoven. È da mettere in cornice, non mi stupisce affatto. E pensare che mia moglie, poverina, voleva tanto bene a quelle due», ricordò il nonno asciugandosi una lacrima. «Ma non bisogna prendersela, sono matte da legare, l'ho sempre detto. Che cosa succede? Le hanno tolto l'ossigeno?» Mia madre protestò. «Ma allora la mamma ricomincerà a respirare male?» Il medico rispose: «Oh no, l'effetto dell'ossigeno durerà ancora per un po', riprenderemo subito». Pensavo che non si sarebbero dette queste cose per una persona che stesse per morire. Se quell'effetto positivo doveva effettivamente durare, era segno che si poteva ancora qualcosa per la sua vita. Il sibilo dell'ossigeno cessò per qualche istante, ma il lamento felice della respirazione zampillava ancora, leggero, tormentato, incompiuto, rinascente senza posa. A tratti sembrava che tutto fosse finito. Il fiato s'arrestava, o, per uno di quei cambiamenti d'ottava che avvengono anche nella respirazione di chi dorme, o per un'intermittenza naturale, un effetto dell'anestesia, il progredire dell'asfissia, qualche mancamento del cuore. Il medico afferrò il polso della nonna, ma già, come se un affluente venisse a recare il suo tributo alla corrente inaridita, un nuovo canto si innestava sulla frase interrotta. E questa riprendeva a un'altra altezza, con lo stesso inesauribile slancio. Come escludere che, senza che la nonna ne fosse cosciente, tanti moti di felicità e di tenerezza, fino a quel momento soffocati dalla sofferenza, si sprigionassero ora da lei, simili a gas leggeri rimasti a lungo compressi? Era come se tutto ciò che la nonna aveva da dirci trovasse sfogo, come se lei stessa si rivolgesse a noi con tanta prolissità, tanta premura, tanta effusione. Ai piedi del letto, devastata da ogni soffio di quell'agonia, senza piangere, eppure, a tratti, inondata di lacrime, mia madre era in preda alla desolazione, priva di pensiero d'un arbusto sferzato dalla pioggia e strapazzato dal vento. Mi raccomandarono d'asciugarmi gli occhi prima di andare a baciare la nonna. «Ma credevo che non vedesse più», disse mio padre. «Non si può mai sapere», replicò il dottore. Al tocco delle mie labbra, le mani della nonna si agitarono. Tutta la sua persona fu percorsa da un lungo fremito, o per riflesso, o perché certi affetti hanno forse una loro iperestesia che attraverso il velo dell'incoscienza riconosce, senza bisogno dei sensi, l'oggetto della loro predilezione. Tutt'a un tratto la nonna si sollevò a mezzo, con lo sforzo violento di chi difende la propria vita. Françoise, non resistendo a quella vista, scoppiò in singhiozzi. Ricordando la raccomandazione del medico, volevo farla uscire dalla stanza. In quell'istante, la nonna aprì gli occhi. Mi precipitai su Françoise, deciso a nascondere il suo pianto, perché i miei genitori potessero parlare alla malata. L'ossigeno non sibilava più, il medico si allontanò dal letto. La nonna era morta. Qualche ora dopo, Françoise poté per un'ultima volta, e senza che ne soffrissero, pettinarle i bei capelli che ingrigivano appena ed erano parsi, fino a quel momento, meno anziani di lei. Adesso, invece, erano i soli ad imporre la corona della vecchiaia a un viso ridiventato giovane, dal quale erano scomparse le mollezze, le rughe, le contrazioni, le pesantezze, le tensioni aggiunte in tanti anni dalla sofferenza. Come ai tempi lontani in cui i suoi genitori le avevano scelto uno sposo, la purezza e la sottomissione segnavano il contorno delicato dei suoi lineamenti. Le guance brillavano di una casta speranza, di un sogno di felicità, persino di un'innocente allegria che gli anni, gradatamente, avevano distrutti. La vita, andandosene, aveva portato con sé le disillusioni della vita. Un sorriso sembrava aleggiare sulle labbra della nonna. La morte, come uno scultore medievale, l'aveva distesa sul suo letto funebre con le sembianze di una fanciulla.